Un consiglio a tutte le donne che hanno voglia di entrare allo zoo. Attente che, pure senza trucco, vai sul sicuro, che entri allo zoo e tanto tutti ti guardano il culo. Prova ad andare da Pippo e Spinta, chi è Spillo e Mini, man fuori peggio di Alisei, attenti a quei provini. Gli occhi del Don a due fanali, gli si apre pure il terzo. Alba si atteggia finto ricco, un gran maestro. Lo zoo con il colpo in canna, animali sbavano peggio di Wender, lupi mannari, Mazzoli di in trasferta, uomini e troie, mandate avido in esterna. Serve un terrone, evita noise o si trasforma. Super minchia, scappa dal macho del porno. Ti mette in cinta, è sempre la stessa storia. Lo zoo gira intorno a una cosa sola. Visto che roba, oh guarda che minchia. E stanno tutti in fila, oh, stanno tutti in fila. La patata tira, pose da tronista. E stanno tutti in fila, oh, e stanno tutti in fila. La patata tira, pose da tronista.